in primo piano. Buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, una domenica elettorale, quindi come potete immaginare le prime pagine dei giornali sono piene di approfondimenti e ancora di dettagli su come votare. Naturalmente gli aggiornamenti li avremo nel GR, forse qualcuno di voi è anche persino un po', non dico stufo, però insomma è stata una campagna elettorale pesante, perciò cercheremo di concentrarci anche su tutto il resto, su tutti gli altri argomenti che ci sono sui giornali, perché appunto le elezioni, per le elezioni aspettiamo più che altro gli exit poll e i risultati che ci saranno in tarda serata. Cominciamo allora dal Corriere della Sera, che titola sul tremendo attacco antisemita che c'è stato ieri a Bruxelles, con l'uomo, l'avete sentito naturalmente anche nel GR, che è sceso dall'auto e ha sparato nel museo ebraico. Il commento è di Massimo Nava, vi leggo la prima parte. Di fronte all'attentato di Bruxelles viene subito in mente quella banalità del male di cui parlava Hannah Arendt. È tutto così semplificato, banale appunto, l'insieme di evidenze e coincidenze attorno al bersaglio, il museo ebraico, al luogo, la capitale d'Europa, al momento simbolico, le elezioni europee, e a questi morti, turisti e visitatori, vittime che ci ricordano la fragilità delle nostre società aperte e che forse almeno oggi ci rammentano la grandezza della posta in gioco. Segue a pagina 3 questo editoriale di Massimo Nava, ve ne leggo l'ultima parte. Proprio di simbologia semplificata che si nutre il populismo antieuropeo, contrapposto alle soluzioni complesse e ai lunghi processi che potrebbero far fare all'Unione il necessario salto di qualità. Dopo troppi anni di veti incrociati, gelosie nazionali, austerità finanziaria miope e devastante. È una simbologia semplificata quella che cattura opinioni pubbliche spaventate dalla crisi, classi medie decadute, classi lavoratrici finite nel baratro della disoccupazione senza futuro, che attribuisce la moneta unico ai complotti finanziari le cause dell'impoverimento, che indica l'immigrato, lo straniero, come il responsabile di tutte le sventure. Non è sorprendente che tra tanti megafoni del rancore si determini il cortocircuito, la scintilla di terrore e follia, l'effetto simbolico sul bersaglio più semplice e banale, in fondo il denominatore comune di tutti gli altri mali, il fondo nel secolo degli orrori cominciò così. E questo era appunto l'editoriale, il commento di Massimo Nava. C'è sulla prima pagina del Corriere anche una bellissima foto di Papa Francesco che si specchia in una piccola pozza d'acqua. Le parole del Papa: la pace non si vende. Avete sentito naturalmente del viaggio del Papa in Terra Santa e ne parleremo ancora. La Repubblica ha una stessa apertura, sangue sulle elezioni, strage a Bruxelles, con l'analisi di Gad Lerner, quell'odio infinito che pesa sul Papa. E il racconto di Gian Piero Martinotti, che è subito stato inviato a Bruxelles, un killer freddo che voleva il massacro. Vi segnalo dalla prima pagina della Repubblica anche un approfondimento di Alberto D'Argenio sulla crescita. Abbiamo appena accennato che tra le tante motivazioni che sicuramente verranno prese in esame da chi andrà a votare oggi ci sono tutti i problemi economici. Ecco, allora il piano Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, il suo piano per la crescita che scatterà il 5 giugno con tassi sotto lo zero e 500 miliardi alle banche. L'editoriale della Repubblica è come sempre la domenica di Eugenio Scalfari, fondatore della Repubblica, che con la sua solita brevità ci spiega chi voterà, non a Morenzi, ma oggi lo voterò, vi spiego il perché. Sul Sole 24 Ore, l'editoriale anche in questo caso del direttore Roberto Napoletano, il sentiero obbligato del cambiamento, Europa e Italia, il voto necessario. È appunto un invito soprattutto a votare e a ridare all'Europa il suo significato. Vi leggo la prima parte. Non possiamo perdere la scommessa di un mondo migliore. Bisogna evitare le troppe storture italiane e europee, combattere il malaffare in casa, diradare la nebbia che avvolge tutto e tutti e impedisce nei fatti di cambiare davvero. Guai però a buttare il bambino, l'euro, con l'acqua sporca. Guai a pensare per un solo momento a fughe nazionaliste che ci farebbero ritrovare con obbligazioni in euro e una lira super svalutata per pagare. Materie prime molte, più care e ulteriore caduta del PIL che annullerebbero i benefici per l'export, tassi in rialzo, insolvenze sui bond, probabili default a catena di imprese, banche e enti locali fortemente indebitati sui mercati internazionali, per non parlare dei problemi che avrebbe il Tesoro della Repubblica Italiana. Si è persa ancora una volta l'occasione di parlare di Europa, si è lasciata la scena a una bruttissima campagna elettorale giocata tutta sul terreno degli insulti e dell'interesse di bottega per ragioni vere o presunte di supremazione diplomazia di politica interna. E il titolo naturalmente del Sole 24 Ore è sulle urne, Europa le urne, riforme e mercati appesi al voto, perché poi abbiamo detto risultati nella notte di oggi e poi domani alla prova dei mercati si riapriranno le borse e si vedrà come reagiranno le borse europee ma anche quelle non europee. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un'intervista di Rossella Bocciarelli al presidente dell'ABI Patuelli, che annuncia un cambiamento di statuto dopo lo scandalo Carige. Sapete, è stato arrestato il presidente della banca Carige, che è anche vicepresidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. E dalla prima pagina del Sole, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che sapete si concentra su un titolo quotato per dare appunto consigli ai risparmiatori. Questa settimana è su Snam, la crescita passa dai gasdotti paneuropei, e poi naturalmente un focus su tutti i costi. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire, che è naturalmente dedicata allo storico viaggio del Papa in Terra Santa, che è iniziato dalla Giordania, da Amman, fare pace da artigiani. La foto è la stessa del Corriere della Sera, con la foto di Papa Francesco che si specchia in questa piccola pozza d'acqua, è presa però da un'angolazione diversa. Dalla prima pagina dell'Avvenire, che poi tra l'altro all'interno ha il testo del discorso di Papa Francesco e molte analisi, vi segnalo anche un ricordo di Don Puglisi, che esattamente un anno fa è stato proclamato beato. Per capire quanto universale sia il messaggio di questo sacerdote palermitano basta far riferimento proprio al nostro continente. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani sono i principi condivisi delle genti d'Europa. Quindi comunque anche qui un modo per agganciarsi al grande tema del voto europeo di oggi. La prima pagina della Stampa ha invece una fotonotizia diversa, perché ieri c'è stato in Ucraina, dove peraltro oggi anche si vota per le presidenziali, è stato assaltato un convoglio dove c'era anche un fotoreporter italiano, Andy Rocchelli, sulla cui sorte non si hanno ancora certezze. Poi un ricordo di Umberto Agnelli a 10 anni dalla morte. Il 27 maggio di 10 anni fa moriva Umberto Agnelli, che era soprannominato il dottore e che guidò la Fiat per 16 mesi dopo la morte dell'avvocato Gianni Agnelli e pose le premesse per la crescita dell'azienda. La prima pagina della Padania, cambiamo l'Europa, con un'intervista di Aurora Lussana, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene perché è ospite una volta alla settimana di Alessandro Milan, che ha chiesto a Matteo Salvini, segretario della Lega, come sarà la sua giornata. Al seggio a testa alta con il sorriso, saremo noi la vera sorpresa, dice Salvini. La Gazzetta dello Sport, insomma, immancabile, una citazione che naturalmente la prima pagina è dedicata a quello che la Gazzetta chiama delirio real. La foto è quella di Carlo Ancelotti, che alza la 10ª Coppa Campioni del Real, che ha vinto, lo avete sentito anche nei GR, per 4-1 contro l'Atletico Madrid. Il Messaggero, voto per l'Europa, duello in Italia. L'intervento è di Romano Prodi, che ogni domenica scrive sul Messaggero, è stato presidente della Commissione Europea, quindi insomma un'autorevole voce. Obiettivo crescita, l'ultima chiamata per cambiare quest'Unione Europea, scrive Romano Prodi. Il Giornale, non votiamo Berlinguer, l'accenno è al fatto che sia Beppe Grillo sia Matteo Renzi hanno evocato Enrico Berlinguer. Il manifesto Europe, con il solito gioco di parole un po' in cui il manifesto è maestro, e un editoriale invece di Luciana Castellina, ecco perché votare Tsipras, la lista per l'Europa. Il Fatto Quotidiano, un'angolazione ancora diversa, il mercato dei voti, con il rischio che anche alle europee ci sia appunto una compravendita di voti che spesso pesa sulle elezioni politiche, non naturalmente solo quelle italiane. Ci lasciamo un attimo per il metro e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani, che ovviamente hanno approfondimenti sulle modalità di voto, sulle aspettative dei candidati. Noi abbiamo cercato di segnalarvi anche le altre cose, perché ovviamente qui, e poi aspetteremo con i GR, con gli aggiornamenti del sito Sole 24 Ore della radio, gli exit poll e poi i primi risultati, che arriveranno però in tarda serata. La prima pagina dell'Unità, cambiamo l'Europa. L'Unità tra l'altro è in edicola senza le firme dei suoi giornalisti, servizi, perché c'è un rischio di liquidazione della società che pubblica l'Unità, e quindi appunto i giornalisti hanno deciso di fare questa protesta. E poi anche in prima pagina la notizia della strage antisemita a Bruxelles. Libero, un calcio al rigore, c'è una caricatura di Angela Merkel che appunto viene un po' spedita nello spazio, perché uno dei temi secondo Libero è appunto che bisogna lanciare un messaggio alla Germania. Oggi gli italiani sfiduceranno l'Europa, succube della Germania e degli euroburocrati, questa la previsione di Libero. Il Secolo XIX ve lo segnalo perché Genova è scossa, molto scossa credo, dallo scandalo Carige, perché Carige è una banca, è un po', sono quelle banche che con cui una città piccola come Genova si identifica, e allora naturalmente l'arresto di Berneschi, che era entrato in banca da impiegato e a 77 anni ne è il presidente, ma è stato appunto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver sottratto 22 milioni di euro, anche se probabilmente è solo la punta dell'iceberg, potrebbero essere molto di più i fondi distratti, e ci sono stati i primi interrogatori. C'è anche un'intervista sul Secolo XIX a Perico, ex sindaco di Genova. Provammo a cambiare, ci fermarono provincia d'Imperia e camere di commercio. Passiamo alle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dal Corriere un'inchiesta di Marisa Fumagalli, che è andata a Monte Carlo e ha un po' cercato di mettere insieme tanti degli aspetti che hanno portato Monte Carlo sulle prime pagine dei giornali, a partire naturalmente dalla vicenda che coinvolge l'ex ministro Scajola, con il rientro da poco di Chiara Rizzo, che è la moglie di Matacena, l'ex parlamentare PDL Matacena, che in realtà è ancora latitante. Il Principato al centro delle cronache per il caso di Chiara Rizzo e per la morte, un altro fatto di cronaca, dell'ereditiera Hélène Pastor, colpita da un killer sulla sua auto. Anche in questo caso c'è un po' un fil rouge, perché si sospetta che dietro a questo omicidio ci sia la criminalità organizzata e addirittura forse l'andrangheta. Ci riassume un po' Marisa Fumagalli la situazione del Principato: 35.000 i residenti, la popolazione del Principato che si estende, pensate, è veramente piccolo, non ce lo ricordiamo forse sempre, per soli 2 km². Sono 7.500 gli italiani che hanno stabilito la loro residenza nel piccolo stato che si affaccia sul Mar Ligure. Dalle pagine interne della Repubblica invece un aggiornamento sull'inchiesta che riguarda appunto l'ex ministro Scajola, arrestato 2 settimane fa, mi ricordo due domeniche fa ero appunto io di turno per la rassegna stampa e ne parlammo diffusamente, anche con l'intervista che figlia e moglie avevano rilasciato alla stampa. Ora, secondo Concita Sannino, che è inviata a Reggio Calabria, la procura di Reggio Calabria che ha avviato questa inchiesta, Scajola nella rete anche una deputata. Nuove carte dell'indagine sulla latitanza di Matacena, per il quale appunto Scajola è indagato perché avrebbe favorito questa latitanza. Il mediatore speciale intercettato al telefono è una mia amica, il legale dell'ex ministro però attacca: la lettera di Maroni per la scorta al professore ucciso Alevieri non è mai esistita. Sapete che nel passato poco trasparente, diciamo così, di Scajola, e c'è anche naturalmente l'episodio che secondo alcuni è il più grave in assoluto della mancata assegnazione della scorta a Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo del 2002, e al quale poi Biagi, quando gli si chiedeva conto di questa, della mancata assegnazione della scorta, ai cronisti rispose, e cito testualmente: era solo un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto oltre che della scorta. Ma dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo anche un altro piccolo grande scandalo italiano, che è quello di Expo, per il quale proprio nel giorno in cui fu arrestato Scajola, circa 2 settimane fa, furono arrestati anche molti imprenditori qui a Milano, ed è naturalmente lo scandalo per Expo, che dovrebbe iniziare esattamente tra un anno, cioè il 31 maggio del 2015. C'è l'ennesima polemica, questa volta riguarda un critico d'arte, Germano Celant che avrebbe ricevuto un incarico da 750.000 euro per curare 2 mostre per l'Expo. Sono naturalmente tantissimi soldi, e Philippe Daverio, ex assessore alla cultura del Comune di Milano, e Vittorio Sgarbi, critico d'arte, ex ministro della cultura, tra l'altro, si sono scagliati contro questo curatore, che però ha replicato: è una cifra lorda e tra l'altro comprende tutte le spese del mio staff, è sicuramente comunque una cifra molto alta. Ma veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore. Come vi dicevo, a pagina 16 la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini su SNAM, che è uno dei giganti del gas. Il tema dell'energia al centro in questi giorni anche di molte analisi, con, sapete, l'accordo storico tra Russia e Cina per la fornitura di gas. Al fine 2014 SNAM ha avuto un EBIT, cioè un utile lordo di circa 2 miliardi in linea con il 2013. In Italia sono previsti investimenti per 6 miliardi di euro. Veniamo alla vicenda Carige. Sulla prima pagina di Finanza e Mercati c'è un'intervista a Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, che è quella che appunto vi richiamavo dalla prima pagina di Rossella Bocciarelli. Scandalo Carige, l'ABI cambierà statuto, nuove regole dopo i casi di Mussari, ex presidente di Monte dei Paschi, e Berneschi. Sapete che ci sono molti paralleli purtroppo tra la vicenda Monte dei Paschi e Fondazione Monte dei Paschi e la vicenda Carige. Il vicepresidente Berneschi, che era vicepresidente dell'ABI, come vi ho detto, sarà sostituito giovedì. Dalle pagine interne del Messaggero invece un aggiornamento su un'altra inchiesta sempre sulla banca, che è quella sulla banca Unipol. Sapete, Carlo Cimbri, amministratore legato di Unipol, è indagato per quello che successe quando ci fu appunto l'integrazione, ma qui il Messaggero ci ricorda anche che i prodotti nel mirino del PM hanno già fatto guadagnare il gruppo. I prodotti nel mirino dei PM sono i famigerati derivati, che hanno già dato appunto i primi utili per Unipol. Dalla Messaggero anche un aggiornamento su un'altra notizia di cronaca che ha un po' scosso questa settimana, che è quella del ministro Lorenzin. Ha annunciato che vorrebbe abolire i test per l'entrata a medicina, e le università e i rettori si rivoltano, così dice il Messaggero, perché abolire le selezioni vorrebbe dire che almeno per il primo anno, l'idea infatti sarebbe quella di posticipare la selezione al secondo anno, cioè chi vedere cosa succede nel primo anno e poi vedere chi può andare avanti, però dove metteremo gli studenti, si chiedono i rettori, e con i numeri che inquadrano questo, sono 63.000 gli studenti italiani che hanno sostenuto il test di medicina che si è svolto l'8 aprile, 10.551 i posti disponibili nelle 37 facoltà italiane di medicina. Allora capite che sarebbero 6 volte tanto le persone che hanno fatto il test. Ammettiamo che altrettanti avessero lo stesso desiderio di entrare a medicina l'anno prossimo, appunto ci sarebbero 10.000 posti nelle università e 63.000 candidati. Per esempio alla Sapienza, dove ci sono 833 posti, sono stati 10.000 i candidati. Vediamo dalle pagine interne della Stampa invece un'altra elezione di cui si parla poco, perché forse anche giustamente quelle europee coprono un po' tutto. Da domani a martedì va a votare anche l'Egitto, e quindi l'intervista di Francesca Paci inviata al Cairo, l'intervista a Ala Aswani, che è uno dei protagonisti dell'opposizione, uno scrittore dell'opposizione a Al-Sisi, e l'intervista si intitola "Contro Al-Sisi per difendere l'eredità di Piazza Tahrir". Naturalmente Piazza Tahrir, che è un po' identificata la grande piazza del Cairo, dove si svolsero tante manifestazioni a cui parteciparono giovani, donne, insomma in generale tutti gli egiziani che volevano un cambiamento che, come ci spiega anche l'Avvenire, è difficile. Sisi cerca lo scettro da faraone. Un approfondimento sulle presidenziali in Egitto con questo generale che sfida l'intellettuale Sabai, secondo il Messaggero, si conclude la lunga primavera che ha pensionato sicuramente il Rais Hosni Mubarak dopo 30 anni di governo, ma non si capisce ancora se il pensionamento appunto di Hosni Mubarak, che ha regnato sull'Egitto per così tanto tempo, veramente aprirà una fase di maggior democrazia. Ci lasciamo un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Dopo aver scorso un po' le prime pagine dei quotidiani italiani e aver citato qualcuno degli articoli all'interno, vi segnalo un'ultima inchiesta dalle pagine interne del Fatto Quotidiano, pagine 12 e 13, una lunga inchiesta di Gianni Barbacetto su una vicenda sicuramente dolorosa, che è quella che è stata definita la guerra delle toghe nella Procura di Milano. E Gianni Barbacetto ci cerca un po' di ricapitolare tutto quello che è successo. L'aggiunto procuratore Robledo ha accusato il capo della procura Bruti Liberati per disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, la destra ha gioito e c'è stato questo simbolo, addio al simbolo di Mani Pulite, perché naturalmente una guerra tra PM è sempre una cosa bruttissima a cui assistere, credo. E ci sono tanti i temi che secondo Robledo sono stati trattati e tra l'altro su cui il CSM dovrà poi esprimersi, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autocontrollo della magistratura. Tra i temi che Robledo ha citato per appunto motivare le sue accuse al capo Bruti Liberati, c'è il caso Ruby, ma anche il caso San Raffaele. Vedremo appunto un po' come andrà a finire, come si ristrutturerà la Procura di Milano. Vediamo ai supplementi culturali, abbiamo qualche minuto in più del solito per approfondirli e cominciamo naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore. Come sempre vi cito la rubrica di Gianfranco Ravasi, il breviario, che inizia, si intitola Armonia, inizia con una citazione che è questa: quando sono veramente fratelli, gli uomini non cantano all'unisono, cantano in armonia. E questo è il commento di Ravasi. Il titolo della composizione è curioso: Grazie, nebbia. I versi che ho scelto sono però luminosi, non solo perché parlano di musica, ma anche perché celebrano l'amore fraterno. Winston Oden, che aveva sposato la figlia di Thomas Mann, Erika, nella sua vita era trascorso dal registro iniziale dell'impegno sociale a quello della spiritualità e del simbolo. Il duetto in musica sboccia anche tra un basso e un soprano, voci antitetiche eppure capaci di creare armonia senza rinunciare al loro timbro. L'identità è alla base del dialogo, altrimenti sarebbe un monologo. La diversità è come l'arcobaleno, che è unico e molteplice. Solo le dittature amano l'unisono degli urrà, il perfetto passo dell'oca e gli slogan uniformi. Il va pensiero non è all'unisono, anche se sembra, perché donne e uomini cantano in ottava, eppure è armonia. La copertina però è dedicata a questo nuovo libro dei millenni, della grande collana che sono i millenni e Einaudi, è L'amore ai tempi di Krishna, e infatti il titolo del libro è Testi d'amore dell'antica India, e qui se ne citano alcuni. L'articolo che parla del libro è di Giuliano Boccali. Dalle pagine interne della Domenica, visto che abbiamo parlato di questo tremendo attentato che c'è stato a Bruxelles contro il museo ebraico, un lungo articolo di Sergio Luzzato che parla della radice dell'antisemitismo. Per secoli il Venerdì Santo si pregava per i, tra virgolette, perfidi ebrei. La parola indicava gli infideli, ma fece comodo l'ambiguità. Il teologo Peterson, ci spiega Luzzato, divulgò la giusta traduzione, ma molti, come Papini, la ignorarono. E ora un libro di Menozzi ricostruisce la storia dello stereotipo infamante. Poi un articolo di Roberto Casati, che sapete è un filosofo della scienza, e che ci racconta questa decisione del Metropolitan, presa una decina di giorni fa, di rendere completamente libere tutti le possono usare molte immagini dei quadri che possiede. Il Met libera la sua arte. Il Metropolitan, il famoso museo di New York, consente la riproduzione gratuita delle immagini, pensate, di 400.000 opere. Il loro valore dipende anche dalla conoscenza diffusa. Quindi ci spiega Casati, in fondo può sembrare appunto una cosa bizzarra che si regali questo patrimonio di immagini, però forse l'idea è anche quella che divulgarle, farle vedere, fa venire voglia poi di andare a vederle dal vivo, di andarle a vedere al Metropolitan, che val sempre una visita, così come New York. La Domenica da collezione, l'inserto dell'inserto, è dedicato a Terzani. Terzani viaggia ancora, al titolo: mentre tutti i suoi materiali di lavoro sono stati dotati alla Fondazione Cini, escono molto ben curati diari inediti. La prima pagina della lettura del Corriere della Sera, il supplemento appunto culturale del Corriere, è, sapete come sempre, sulla prima pagina la lettura ospita un'opera di un fotografo, di uno scultore, di un pittore, di un illustratore. Oggi è un disegno di Fabrizio Plessi, che è un artista molto difficile da definire video artista, ma in questo caso il disegno è per una di quelle barche che sono i mari verticali, sono delle piccole barche che Fabrizio Plessi ha poi ricostruito mettendo all'interno degli schermi in cui si vede l'acqua che scorre, molto suggestive. Ma la prima pagina, le pagine 2 e 3 della lettura ospitano un lungo articolo di Alessandro Piperno, Cara Lolita, la tua vita nelle mie mani. È un luogo comune, quello che l'autore non è mai del tutto un padre del protagonista, così come il protagonista non è mai del tutto libero. Proprio ieri sera ascoltavo qui alla radio la nostra Alessandra Tedesco nel suo Cacciatore di Libri, che dialogando con Paolo Paolo Giordano affrontava a sua volta il tema appunto di quanto c'è dell'autore in un libro, e quindi anche qui Alessandro Piperno, il rapporto tra gli scrittori e i loro personaggi, creatore e creatura, chi comanda davvero? E poi, come sempre sapete, mi piace molto questa rubrica della lettura, che è sui visual data, cioè sulla visualizzazione dei dati, ogni volta una pagina dove un'infografica racconta qualcosa e cercando di unire appunto l'immagine ai dati e darci un quadro più possibile sintetico di un qualsiasi argomento. Questa volta è il confronto tra chi consuma birra in Europa, tanto per restare in tema di Europa, e chi consuma vino. L'Italia quasi sobra nell'Europa della birra, ed ecco, divisa in due proprio, si vede che l'Italia e la Francia naturalmente sono i paesi che consumano più vino, l'Italia in particolare il paese della UE dove si beve di meno, e in generale, e poi l'Europa della birra. Passiamo a un altro supplemento del supplemento del supplemento, perché come sapete alla domenica il Sole 24 Ore ha anche Nova 24. Qui c'è un articolo molto interessante per tutti noi giornalisti, ma anche chi insomma in generale i giornali li legge, quindi tutti voi ascoltatori della radio che magari mi state ascoltando perché avete già comprato o comprerete un quotidiano. E l'articolo di apertura è di Enrico Pedemonte ed è dedicato a un report che si chiama Innovation, l'ho scaricato anch'io dalla rete, doveva restare segreto e invece è, come si dice, leaked, è stato messo in rete, è un speciale approfondimento dove il New York Times cerca di spiegare come potrebbe essere l'informazione del futuro. Questo è il titolo dell'articolo, è filtrato appunto questo report. Naturalmente tutto inizia con l'integrazione, il grande tema dell'integrazione tra carta e web. È interessante questo report perché in realtà parte dalle opinioni che lo stesso New York Times ha chiesto ai suoi giornalisti: che cosa c'è che non va, che cosa fareste voi, come ristrutturereste il giornale. E vi leggo le ultime righe di questo articolo di Enrico Pedemonte, che ha letto il report che è di circa 100 pagine. La parola chiave è sperimentare, senza troppa paura di sbagliare. Tra le richieste contenute nel rapporto, la più eversiva è forse quella di far sedere allo stesso tavolo tecnologi e giornalisti, perché il giornalismo, ormai è chiaro, è diventato una professione tecnologica. La prima pagina del supplemento culturale della Repubblica, Cult, è invece dedicata a Isaac Asimov, il grandissimo scrittore russo, che però era anche un chimico di formazione e che era molto appassionato di previsioni, e quindi addirittura 50 anni fa immaginò come poteva essere il mondo nel 2014, il futuro immaginato 50 anni fa dal padre della fantascienza. Dalle pagine interne della Repubblica anche due pagine dedicate a Cuba. Che noia vivere, qui, Cuba Libre, con tutti gli approfondimenti di quello che sta succedendo a Cuba, dove è in corso una grande, sicuramente una transizione, perché Fidel Castro è ancora vivo, è ancora lì, al potere c'è suo fratello Raul, però sicuramente Cuba prima o poi dovrà trasformarsi in qualcos'altro, e quindi l'analisi soprattutto di che cosa stanno facendo i giovani. Sempre dalle pagine interne della Repubblica, nel supplemento domenicale, Quote Rosa, così le donne salvano il PIL, un articolo di Luisa Grion che cita un rapporto di Goldman Sachs secondo il quale per raggiungere la parità di genere nell'eurozona, e torniamo a bomba sul tema dell'Europa, farebbe aumentare il prodotto interno lordo del 13%, e in Italia, che ha le condizioni peggiori come sappiamo, questo aumento sarebbe addirittura del 22%. Ultima segnalazione dalle pagine interne del Fatto, una lunga intervista a Laura Morante, l'attrice, titolata, questa intervista di Fabrizio Corallo e Malcolm Pagani, Ho poco amici, non vado al denaro, recito per amore, un bellissimo ritratto appunto di Laura Morante. Ringrazio Carmelo Lauricella che ha cercato di tenermi nei tempi. Una buona domenica e buon voto da Giulia Crivelli.